corso del tempo più lungo sia l'attesa della gioia, mentre i secondi sembrano non passare, e nemmeno un timido saluto incontra l'atrio dei tuoi pensieri, dei tuoi pensieri. I sentimenti sono stelle che si possono vedere solo col cielo limpido. Ogni piega del nostro cuore sovente ci sospinge fino allo schianto dell'amore, dell'amore. Così vanno i mesi e gli anni, così vanno i mesi e gli anni, e mi levo dal sogno, e mi levo dal sogno, che la memoria non ha palpebre, non può che vedere. E solo la cortesia del giorno, solo la cortesia del corrompe, giorno, corrompe la perfetta immagine di questo secchio di vita che si colma la tua Così vanno i mesi e gli anni, così vanno i mesi e gli anni, e mi levo dal sogno, e mi levo dal sogno, c'è che la memoria non ha palpebre, non può che vedere. Solo la cortesia del giorno, solo la cortesia del corrompe, corrompe la perfetta immagine di questo secchio di penso che il tempo più lungo sia l'attesa della gioia, penso che il tempo più lungo sia l'attesa di te, di te, di te.